4 di Giovanni Minoli. Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere e valorizzare quella Calabria che non accetta di essere identificata con l'Ndrangheta o con la massoneria, con la corruzione. Siamo qui perché amiamo la vita, per sostenere e valorizzare quella Calabria, la vostra, lasciatemi dire la nostra. Oggi tutti ci sentiamo calabresi e ci sentiamo sbirri. Ecco, buongiorno, bentornati a Mix 24. Siamo tutti sbirri, così Don Ciotti ha risposto a Locri durante la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, le scritte sui muri contro di lui e contro le forze dell'ordine. Nicola Gratteri, che è procuratore della Repubblica di Catanzaro, nemico numero uno dell''Ndrangheta, è autore del libro Padrini e padroni, come l''Ndrangheta è diventata classe dirigente. Ecco, a Locri Don Ciotti ha detto siamo tutti sbirri. È una reazione forte e appropriata? Sì, Don Ciotti ha detto delle cose importanti e forti. Io ero presente domenica quando è stato anche il Presidente della Repubblica, il Vescovo di Catanzaro, il Vescovo di Locri, hanno detto, denunciato in modo chiaro e netto l''Ndrangheta, la pervasività dell''Ndrangheta. Però devo aggiungere che i calabresi assistono a queste denunce, da tanto assistono tempo a manifestazioni da decenni, da più di 30 anni ricordo io. Ad esempio, anche quando il giorno dopo i funerali del vicepresidente della giunta regionale Fortugno c'erano oltre 30.000 persone ad una manifestazione contro l''Ndrangheta. E quindi purtroppo non basta quello. Oggi noi denunciamo che l''Ndrangheta è molto più forte di prima rispetto a 10 anni fa o a 20 anni fa. Ecco, ma procuratore, lei dice che non è stata l''Ndrangheta vera e propria a fare quelle scritte perché non ne ha bisogno? Ma guardi, io sto parlando dell''Ndrangheta, dell'elite dell''Ndrangheta, di quella vera, quando quella che gestisce l'importazione di tonnellate di cocaina, quella che controlla gran parte della pubblica amministrazione, quella che gestisce gli appalti. Certo, è quindi ovvio che l''Ndrangheta non è così stolta quando ci sono a Locri almeno 50 telecamere, tutte le televisioni principali d'Italia, ad accendere i riflettori, cioè come i calabresi sono stati spettatori in questi 10 anni, certo. Anche l''Ndrangheta è stata spettatrice di manifestazioni. Ecco, ma procuratore Gratteri, quindi può essere stato un gesto di rabbia rispetto, non so. No, io penso molto agli stolti, cioè agli stupidi che sono ubriachi del modo di pensare, della filosofia criminale dell''Ndrangheta. Penso a quelli che odiano per ignoranza, per stupidità, che odiano lo Stato, che odiano le istituzioni. C'è un Alla gente comune di Calabria, più lavoro meno sbirri, è un messaggio che non produce nessun effetto? No, perché le persone intelligenti, quelle che già hanno fatto le scelte di campo, certo, sanno bene che l''Ndrangheta porta fame e disperazione, che droga l'economia legale e che fa saltare le regole del libero mercato. Quelli che erano ignoranti rimarranno ignoranti e penseranno che è l'impresa mafiosa che gli dà il lavoro nero, quindi gli dà il lavoro sottopagato. Certo, ma quindi in Calabria si abbracciano strettamente politica e 'Ndrangheta? Certamente c'è una commistione sempre più forte. Io nel corso di questi anni, degli ultimi 10 anni, vedo sempre più un abbraccio tra la politica e l''Ndrangheta, al punto che uomini dell''Ndrangheta sono direttamente al potere e gestiscono in prima persona, da incensurati, con una mentalità mafiosa, la cosa pubblica. Ma quindi l''Ndrangheta è molto più potente della mafia oggi? In questo momento sì, intanto è la più ricca perché controlla l'80% delle importazioni di cocaina che arriva in Europa e poi è più forte perché è meglio strutturata, cioè la filosofia criminale, l'ortodossia, l'osservanza ortodossa delle regole la rende granitica, la rende forte. Impenetrabile, insomma. Impenetrabile, il fatto che 2-3 famiglie patriarcali formano un'organizzazione la rende impenetrabile, basta contare il numero degli affiliati con numero di collaboratori di giustizia e fare le proporzioni e capire che non ci sono quasi collaboratori di giustizia rispetto a Cosa Nostra o men che meno rispetto alla Camorra. Vabbè, certo, lei ha detto l'Ndrangheta è il primo partito della Calabria, queste parole lo confermano, insomma, parole dure, Sì, ma purtroppo è così, perché l'Ndrangheta è sì una minoranza, ma essendo una minoranza organizzata, quel pacchetto di voti che mediamente è il 15-20%, basta spostarlo a destra o a sinistra, concorrerà a determinare chi sarà il sindaco, chi sarà, e conseguentemente quindi tutto lo staff. Perché lei calcola nel 15-20% dell'influenza. E i voti che controlla l'Ndrangheta, certo. Senta, lei... partecipa e l'Ndrangheta si ricordi che non è mai l'opposizione. Lei ha detto che molte aziende sequestrate perché legate all'Ndrangheta poi falliscono. Ecco, perché falliscono? Falliscono perché sono un'anomalia del mercato, perché quelle aziende si reggono con l'indotto della vendita della cocaina, cioè là dentro vengono riciclati i soldi della cocaina. Nel momento in cui il cordone ombelicale si recide, falliscono. Nel momento in cui questo tubo catodico di una stanza che c'è piena di euro, che attraverso questo tubo catodico arriva alla cassa, non c'è più, è ovvio che non reggendosi sulle proprie gambe, è ovvio che... Certo, ma non sarebbe interesse dello Stato farle prosperare proprio per quella ragione, per dare un esempio? Guardi, questo sì, però non ce lo possiamo permettere. Cioè, sono parole. Sono tali e tante che non ce lo possiamo permettere di fare questo accanimento terapeutico. Noi dobbiamo avere il coraggio di chiuderlo immediatamente appena vediamo che queste aziende sono delle anomalie del mercato, perché non ci possiamo permettere questi lussi. Tanto poi dopo 4-5 anni... Falliscono da sole. Ma è vero che in Sud America l'Ndrangheta stava finanziando la scissione di una regione intera, di uno Stato, per poter raffinare indisturbata la droga? Guardi, l'Ndrangheta da decenni ormai partecipa direttamente alla produzione della cocaina in Colombia ed è in affari sia con le AUC che con le FARC. Cioè, anche se formalmente oggi non si può dire che esistono più le AUC e le FARC, perché formalmente è stata ratificata una pace, l'ultima l'abbiamo vista, il presidente della Colombia che è venuto anche in Italia ospite e ha ricevuto anche il premio Nobel per la pace, a me è parsa piuttosto una forzatura questo premio Nobel, perché la storia ci ha insegnato che 7 anni fa, quando è stata fatta la pace con le AUC, che erano 20.000, 10.000 continuano indisturbati a trafficare in cocaina. Ma quindi l'Ndrangheta sostanzialmente oggi ha il monopolio della cocaina nel mondo, sempre più ricca? Quasi monopolio, perché riesce, è molto credibile nel panorama sudamericano, in particolare con i colombiani, i brasiliani, pensi che qualche anno fa era anche in affari in una sondaggine con il Zetas, che è l'organizzazione terroristica più forte e più potente che c'è nel Messico, che era allora in affari col cartello del Golfo, che è la più grande organizzazione mafiosa. Ma chi sono i boss dell'Ndrangheta? Come? Chi sono i boss dell'Ndrangheta? Ma i boss oggi possono essere tranquillamente degli incensurati, laureati, che sconosciuti, che gestiscono la cosa pubblica in modo mafioso. Tanto sconosciuti no. Bisogna solo, deve essere nostra bravura, attenzione e fatica a dimostrare la loro penale responsabilità. Ma come mai quelli della mafia piano piano sono stati arrestati, non dico tutti, ma molti, quelli dell'Ndrangheta no? Ma perché ci sono varie le concause, però Cosa Nostra ha fatto un errore strategico, meglio Corleonese o meglio Rina, quello di pensare nel suo delirio di onnipotenza, perché Rina è stato un folle, un pazzo, pensare di dettare l'agenda allo Stato, quindi lo Stato è stato costretto a reagire e ha mandato uomini e mezzi, ha mandato di tutto e di più. Ogni volta che Cosa Nostra uccideva un magistrato, una strage eccellente, il giorno dopo c'era un decreto legge con la cosiddetta legislazione di emergenza, ricordiamoci che il 416 bis, che le misure sono nate sempre il giorno dopo con decreto legge una strage, cioè il potere politico si muove solo, reagisce solo davanti alle stragi. Senta, perché preso dalla paura e dal panico reagisce in quel modo. Senta, in tempi di pace relativa produce solo quello che abbiamo visto l'altro giorno al Senato, cioè quasi nulla. Cioè la riforma del codice penale che c'è stata non vi aiuta nella lotta alla Ndrangheta. L'altro giorno, guardi, Qualcosa di buono è stata fatta, ad esempio hanno recepito dalla mia commissione il processo a distanza, sì. Cioè quello che il detenuto alta sicurezza sta in carcere e starà lì sia che se deve essere sentito come indagato, non si deve muovere più, non si deve muovere più, anche se si deve separare con la moglie, sì. Questo vuol dire quantomeno risparmiare 70 milioni di euro l'anno, vuol dire 10.000 uomini della polizia penitenziaria che anziché fare non si muovono, trasferimenti, sì. Stanno in carcere e anche più difficoltà di contatti, insomma. Esatto, di contatti, di mandare ambasciate all'esterno. Ed è l'unica cosa della sua proposta fatta, sì, Renzi, che è stata recepita, sì, insomma, sì, un po' di delusione, sì. Quindi abbastanza. Senta, dottor Gratteri, intanto adesso lei vive sottoscorsa da molti anni, un po' di paura dall'89. Cioè la paura l'ha esorcizzata, come fa? Sì, io certo che certe volte ho paura e parlo anche con la morte, bisogna avere la consapevolezza di quello che si fa e di quello che si va incontro, però ovviamente bisogna razionalizzare e addomesticare la paura e pensare che non c'è altra scelta, certo, che non quella di andare avanti. Oramai è troppo senso, avanti. Non ha senso vivere da vigliacchi, tornare indietro. Senta, dottor Gratteri, intanto si è aperto, per chiudere, si è aperto anche il tema dei magistrati in politica. Secondo lei possono rientrare in magistratura dopo aver fatto politica oppure no? Ma sarebbe meglio di no, perché un usurato, un estorto, il giorno dopo, oppure anche uno che ha commesso un reato di natura politica, un pubblico amministratore, sì, vuole stare tranquillo. Però guardi, è un falso problema, perché spesso ci sono stati magistrati che, anche se non hanno mai fatto politica, con le loro dichiarazioni, con il loro attivismo correntizio, spesso hanno fatto più politica questo di quelli certamente, che erano, ma quelli io che erano in Parlamento, certo, quindi bisogna, sì, anche avere il coraggio, cioè, la sostanza e la forma, non essere ipocriti, però, diciamo che intanto porte girevoli o no, è meglio di no. Sì, certo, è meglio di no, bisogna essere seri, un magistrato non solo deve essere onesto e indipendente, ma deve anche apparire tale. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, è duro Gratteri, chiaro, sì, duro. La politica reagisce solo davanti alle stragi, per il resto nulla, insomma. Una provocazione forte. Ha fatto un quadro, mi pare, esauriente. Sì. L'emergenza numero uno oggi è l'Ndrangheta. Assolutamente. Ci sono dubbi. Senti, Pietrangelo, 15% peso politico dell'Ndrangheta. È tanto, se è vero. Se è vero è tanto, però c'è da considerare che la politica fa anche di peggio, nel senso che utilizza una retorica necessaria, qual è quella, sì, della lotta alla criminalità, per farne invece l'esatto opposto. Ricordiamoci che c'è la mafia, ma poi c'è anche la mafia dell'antimafia, certo, ed è quella su cui si costruisce una speculazione che danneggia la lotta alla criminalità. I primi a dare l'ostacolo alle forze di polizia sono proprio questi, che fanno soltanto retorica e non attività di controllo del territorio. Gratteri non ci è andato leggero neanche su quello che riguarda i magistrati che fanno politica e viceversa, dicendo che ci sono stati magistrati che hanno fatto più politica da magistrati che altro. Beh, insomma, questo è vero, lo sappiamo, no? Sì, i 25 anni di Mani Pulite, no? Nel 1992, lì cambia il paradigma. Prima i magistrati facevano poca politica, poi improvvisamente sono diventati protagonisti. Prima con la rivoluzione giudiziaria, che rivoluzione non è stato, e poi entrando direttamente nel campo della politica. Senti, si disse che era una supplenza, però la supplenza non è mai finita. Ed entrando anche direttamente nella viva carne della società, cioè, se pensiamo a quello scandalo inaudito che è la gestione dei beni confiscati, e di cui nessuno parla, e di cui pochissimo, nessuno sa niente, e che pochissimo, non solo è un'ingiustizia in quanto tale, ma avvelena il tessuto sano della società. Sarà un caso che l'unica, sì, riforma che non sono riusciti a fare è quella della giustizia e delle cariche giudiziarie, sì, no? Sì, però questo discorso dei beni confiscati è un discorso obiettivamente molto, molto significativo, intanto contro il fenomeno cosiddetto delle porte girevoli. Il decreto legge in discussione alla Camera pone dei limiti, non potranno essere candidati oltre che al Parlamento nazionale, europeo, neanche negli enti locali. se hanno esercitato nello stesso territorio. L'incompatibilità si estende ai 5 anni precedenti, parlo naturalmente dei magistrati, e infine chi avrà avuto incarichi di diretta collaborazione con la politica, rientrando in servizio, non potrà ricoprire incarichi direttivi per un anno. Insomma, un quadro che in qualche modo prova a regolare un settore che per adesso era assolutamente libero. Senatore Felice Casson, che è il vicepresidente della seconda commissione di giustizia, ma già magistrato a Venezia, da anni si batte per una regolamentazione delle cosiddette porte girevoli. Ecco, senatore Casson, la decisione presa è quella che lei si auspicava? Direi di no, perché la proposta che avevo avanzato ancora nella passata legislatura era quella sostanzialmente di vietare ai magistrati che finiscono in Parlamento di tornare nella Quindi non è contento, no. Lei però è fuori ruolo dalla magistratura, quindi sarebbe meglio obbligare alle dimissioni? È impossibile, perché sarebbe incostituzionale, perché la Costituzione garantisce il ritorno a tutti i dipendenti, non solo i magistrati, nel posto di lavoro. E quindi in realtà non fa tanta differenza. E quindi sarebbe opportuno, direi doveroso, regolamentare sia le fasi dell'entrata in politica che quelle dell'uscita, e soprattutto quelle del ritorno, la fase dell'uscita. Quindi, se per lei fa differenza fra 3-5 anni per il rientro in magistratura? No, non fa molta differenza. Il testo che è stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera accoglie sostanzialmente l'impianto, l'impostazione che ha dato il Senato, sì, e alleggerisce un po' i tempi, gli anni, sì. Però sostanzialmente quello, va bene. Non c'è molta differenza. Senta, senatore Casson, l'importante però è non correre il rischio nel quale è in corso il suo collega Sinisi, che è stato parlamentare della Margherita, poi è tornato in magistratura ed è stato tra quelli che ha giudicato e condannato Mizzolini. Questo andrebbe evitato in tutti i modi? Andrebbe assolutamente evitato, e peraltro io penso che anche a normativa vigente sarebbe stato possibile sia per lui astenersi per gravi motivi di convenienza, sì, e sia poteva anche uno degli avvocati difensori di Mizzolini ricusare il giudice. Ma il ministro, secondo lei, avrebbe dovuto fare un'azione disciplinare nei suoi confronti o no? Ma per me esistevano i gravi motivi di convenienza per l'astensione, certo, quindi di conseguenza poteva cominciare un'azione di questo tipo e poi vedere. Certo, oggi il problema numero uno è quello che riguarda Michele Emiliano, che è candidato alle primarie, che ha rifiutato di dimettersi dalla magistratura pur essendo iscritto a un partito. È grave, eh? Ma a me non sembra il problema numero uno, perché Emiliano ha rispettato le leggi vigenti, la Costituzione consente a tutti, compresi i magistrati, di candidarsi. No, ma anche essere iscritti a un partito? Io preferisco che quello è il no. Punto. Io non sono iscritto, il punto è so quello. Che altri non sono iscritti, altri sì, però è un po' così ambiguo. Da farisei, direi, ambiguo, dire puoi fare politica. Posso fare politica ma non essere nulla. Comprimere questo diritto, partecipazione, certo, alle primarie in certo primis. Ma lei si aspetta una sentenza di condanna oppure no da parte del CSM nei confronti di Emiliano? Io mi aspetto che il Consiglio Superiore della Magistratura mandi gli atti alla Corte Costituzionale, perché c'è, a mio modo di vedere, una violazione dei diritti costituzionali di Emiliano. Ho capito. La situazione va chiarita fino in fondo. Oggi in Italia esistono circa 200 magistrati fuori ruolo che assumono ogni tipo di incarico a stretto contatto con la politica. È una zona grigia su cui fare luce o va bene così? Ma è certamente una zona grigia. Tra l'altro questo riguarda non solo i magistrati ordinari, ma direi soprattutto i magistrati amministrativi. Certo. Fatta una distinzione peraltro tra coloro che scendono direttamente in politica, quindi in maniera pubblica, palese, si sottopongono anche al giudizio degli elettori, e coloro invece che hanno rapporti con la politica in maniera non pubblica. E forse questa zona grigia andrebbe molto meglio delimitata, andrebbero regolamentate seriamente, molto sì, stretti anche temporali. Senta, senatore Casson, un'ultima domanda. Quando Giovanni Falcone accettò l'incarico che gli fece il ministro di giustizia di allora, Martelli, lei al suo posto avrebbe accettato o rifiutato? La situazione di Giovanni Falcone era molto particolare, era comprensibile che accettasse, e in una situazione del genere io non accetterei. Perché? perché vuol dire arrivare direttamente in un Ministero della Giustizia e i patti devono essere chiari fino in fondo, ed era un momento direi storico per la giustizia nei rapporti tra giustizia e politica. E quindi lei non avrebbe accettato, non avrebbe accettato. In quel momento. In quel momento. Dunque Mario, una notizia, al posto di Falcone Casson non avrebbe accettato l'incarico, tu che ne dici? Secondo me Falcone era animato come tutti dall'idea di migliorare il sistema e contribuire. Ma l'idea che lui non avrebbe accettato. Sono due scuole di pensiero. Anche all'epoca, ti ricordi, furono violente polemiche. No, polemiche enormi. Quindi, ma sai, Falcone rispose a quelle polemiche con molta chiarezza. Sì, sì, lui giustificò. Non giustificò. Diede le sue ragioni per quella scelta. Io condividevo all'epoca l'azione di Falcone, secondo me era una cosa importantissima. A me ha colpito, insomma, sì. Quello che ha detto. Però guarda che su questa cosa c'è proprio una separazione due scuole di pensiero, per cui Casson la pensa così. Senti, secondo te Emiliano rischia al CSM? Un po' sì. Sì, un po' sì. Ma perché sì. Si intrecciano di nuovo magistratura e politica, e quindi sì, e poi c'è un viene certo, facile fare quella c'è roba un certo lì. Clima nei confronti della magistratura. Vabbè, il Corriere della Sera oggi dice esatto. Che un italiano su due non si fida dei giudici. Esatto, quindi diciamo manca come dire, come spesso capita, il clima giusto, lo sguardo obiettivo per decidere senza essere influenzati. Secondo te, Pietrangelo, questo segna può segnare, può entrare nella corsa alla candidatura della segreteria del PD o no? Entra sicuramente, ho un'idea. Intanto cane non mangia cane, e quindi immagino che Emiliano non possa essere massacrato, diciamo, dai suoi sodali, se posso usare questa brutta espressione. Però Emiliano paga un prezzo molto più alto di quello che potrebbe essere la sua corsa alla segreteria del Partito Democratico, cioè ha fatto un grande errore. Lui doveva tenersi fuori da questa storia perché aveva ben altre carte, aveva il Sud su cui doveva costruire e lavorare per realizzare un progetto costruire politico, una leadership totale del Sud, che è quella che manca. Però noi abbiamo Mauro, scusa Mari, abbiamo Mauro da Catania. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io, come tantissime persone, stimo il dottor Gratteri per il suo lavoro e purtroppo lo vedo molte volte con le armi spuntate, perché sì. Come lei ha detto prima, vivo a Catania e vivo sì. In un territorio e in una zona che quotidianamente ci vede confrontarci con quello che sono gli atteggiamenti che si vogliono chiamare mafiosi, dranghettisti o così via. E quindi? Il problema era, come diceva giustamente, e voi vi sembrava strano, e io vi posso dire che anche di meno di quello che non è il 15-20%, perché purtroppo, e io avevo anche una piccola attività, purtroppo cosa succede? Che qualunque malavitoso o appena uscito dalla galera e immediatamente rientra in tutta quella filiera, che sono le attività che ti fanno quasi essere connivente con l'atteggiamento, perché se io vado in fallimento o per un motivo o per un altro, perché lo Stato non ti sostiene, divento quasi un piccolo affiliato, volente o nolente, ripeto, perché devo portare a casa qualcosa. Lei dice che è un'esperienza diffusa questa. No, è un modo di vivere che purtroppo, quando io anche volessi fare delle azioni giuste, chiamiamole giuste perché la nostra etica, il nostro status mentale di quello che è stato il nostro retaggio culturale ci dice, ma questo è storto, io lo denuncio. Ah, ma se ci sono indagini che durano anni, tu nel frattempo sei soggetto a estorsioni, sei soggetto a tutto quello che è il modus operandi e vivendi di loro. E quindi non conviene. No, non è un fatto di convenienza, no, perché ognuno poi il proprio. No, il ma proprio... allora il punto qual è? Il punto qual è? Che la politica non ha nessuna volontà di decidere. Ah, come diceva Pietrangelo, come diceva Buttafuoco. Non è solo un fatto di dire o non dire quello che è un fatto che purtroppo quando tu vivi in un territorio, con quello ti ci adatti, perché è come al nord si mettono le cinture di sicurezza, si mettono il casco, al sud, capito, va è bene. Optional. Grazie Mauro, 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Per ricordare Alfredo Reichlin, lo storico dirigente del Partito Comunista morto, oggi vi facciamo sentire, abbiamo scelto un suo intervento breve ma molto significativo da testimone al famosissimo incontro che ci fu all'epoca alle Frattocchie tra Craxi e Berlinguer, incontro al quale seguì la rottura tra i socialisti e i comunisti. Sentiamolo. Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra. Craxi non è che dicesse la sinistra mi fa schifo, tutt'altro, però diceva guardate siamo prudenti, adesso ci conviene che io, cioè il mio partito, collabori con la Democrazia Cristiana. Finito di mangiare decideremmo di prenderci una mezz'ora di pausa e lì c'era un giardino, Craxi mi prese sotto braccio e mi disse guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, ha molte ragioni, però ciò che Enrico non capisce, diceva Craxi, è la novità che io vedo da Milano, diceva lui. I nuovi ceti che vengono avanti, il fatto che la sinistra deve cambiare linguaggio, era ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza a sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione. Ecco, questa è una testimonianza significativa, molto precisa di Reichlin sull'incontro fra Craxi e Berlinguer alle Frattocchie, da cui appunto seguì la rottura tra socialisti e comunisti. Pietrangelo, cosa sentiamo? Eccola. Allora il coro delle ore stamattina ha preso posto in metropolitana e l'ora più splendente, l'alba, che è donna di somma avvenenza, ha zittito già nel suo apparire un guerriero, il suo re è uno scriba che l'hanno vista e ne sono rimasti sopraffatti. E allora lei, l'alba, ha chiamato stamattina qui nel nostro centralino e ha richiesto questo brano e ha lasciato un messaggio al re, allo scriba e al guerriero, cioè questo: chi per essere resta sempre per andarsene via. You are generous. You make sunshine and glory too. Beh, Mario, tu dove ci porti? Intanto sentiamo un po' di musica. Qui c'è la gara delle playlist. Yes. Sto pezzo meraviglioso. Questo è Pat Metheny, 1992. Eravamo The Longest Summer. E mi ha colpito stamattina un titolo del Gazzettino di Venezia e riguarda la distribuzione degli immigrati sul territorio italiano. E insomma, cioè, deve arrivare Minniti, il ministro dell'interno, e il titolo è Arriva Minniti, gelo dei sindaci. E fin qui, vabbè, uno dice ok. Poi vado a leggere il catenaccio è quell'elemento, sì, sotto al titolo, per essere chiari. Solo in 56 su 575 a Treviso per l'incontro con il ministro. Ammazza, 56 su 575 10%. Fa una differenza di 519 sindaci mancanti. Quindi mi sono chiesto, ma che cosa sta succedendo in Italia? Io penso che siamo arrivati a quello che il professor Miglio, te lo ricordi Gianfranco Miglio, certo, chiamava lo sbrego istituzionale e costituzionale. Cioè, di fatto, senza aver fatto nulla in questi anni, si è arrivati a una separazione de facto del paese. E infatti fanno del il paese, e infatti fanno il referendum in Veneto. Devo dire che noi italiani siamo dei perfezionisti, perché alla fine abbiamo fatto la Venetexit, o quasi, senza colpo ferire, senza si può dire. In Europa discutono delle due velocità, ce le abbiamo già noi. Noi le cose di cui si discute non ci interessa, no, le facciamo. Le abbiamo dice, già fatte, le due velocità ci sono già in Italia. Venite. Vabbè, andiamo col salamino di oggi. Mandato educativo, culturale e meritocratico, con 2 miliardi di canone a garanzia di siffatto mandato, il più cretino tra i cretini avrà più sapienza almeno di 4 enciclopedie Treccani. Addirittura. E certo, Giovanni, scusami, ma tu ti ricordi di Campo dall'Orto? Il mandato è un mandato che ha come caratteristiche educativo-culturali, basate su una percorso pedagogica che sia basato sul merito. Quindi il mandato è stato tanto chiaro quanto di ordine educativo, generale. Educativo, scusa, detto, educativo-culturale perché? Educativo-culturale e merito. Esatto. Educativo, culturale, merito, quindi almeno 4 enciclopedie Treccani a testa, giusto? Che succede? Paola Perego è stata cacciata. La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me. In una trasmissione del dopo pranzo ha mostrato una slide sulle ragazze dell'est ed erano tutti luoghi comuni, sexy, e la coscienza etica è stata messa in salvo. Giovanni, Mario, secondo, sì, evidentemente quel mandato culturale, meritocratico, educativo ce l'aveva lei in quel momento, certo, sicuro, no? Ma domanda che ci domandiamo, io di sicuro. Domanda che ci domandiamo, Giovanni, te lo domando, ma la RAI con gli autori, il capostruttura, il direttore di rete, lo stesso direttore generale, dov'era? Un colpo di fucile ed ecco che ritorno col pensiero. Un colpo di fucile, secondo me è tutta un'autonomia, no? Tanto è vero che tra i temi sensibili, il sensibilissimo caso Riina, ricordate? Certo, come no, intervista. Ebbe questo svolgimento. Posso farvi ascoltare? Facci ascoltare. Quando Bruno Vespa ha intervistato Riina Junior, lei lo sapeva? No, lo vengo a sapere. Lo viene a sapere, ma viene anche a sapere che Riina ha firmato la liberatoria, cioè ha dato il consenso a trasmettere l'intervista solo dopo averla fatta e averla rivista. In genere, come lei sa, le liberatorie si firmano prima. Assolutamente, mi sembra un problema questo è un vulnus. Non si può far firmare dopo, cioè sì, dopo dove bisogna deve firmarla essere prima, fatta firmare prima, perché il contesto ti obbliga a firmarla prima. Punto. No, ma su questo io non ho nessun dubbio. Va bene, questa mi sembra una critica seria. Lucia Borsellino di Vespa ha detto dopo l'intervista: non lo giudico, ma lo evito e non voglio avere a che fare con lui. Beh, dura, eh? Sì, no, ma infatti credo che la riflessione rispetto a come si fanno le cose è importante, nel senso che questi giudizi obbligano a una riflessione. A una riflessione rispetto a un rapporto tra che è uscito forte, tra testo e contesto. Cioè, senta, anche Monsignor Galantino, che è l'uomo del Papa, praticamente, ha detto: io non mi siederò mai su una poltrona di porta a porta. Povero campo nell'orto, a questo non gli arriva più l'acqua, però anche lì ci fu un'incomprensione proprio in tema di mandato educativo, culturale e meritocratico. Ma vince su tutto l'autonomia. Ora, domanda che ci domandiamo, chi è il più autonomo di tutti? Si è capito che non è il direttore generale, si è capito che non è il direttore di rete, si è capito che non è il capostruttura, si è capito che non è l'autore, qualche volta il conduttore, tant'è vero che tra gli inciampi Rai, perfino Asia Argento, facendo uno schifoso tweet contro Giorgia Meloni, da conduttrice di Amori Criminali su Rai 3, giusto una trasmissione sul corpo delle donne, si è ritrovata cacciata. Allora, di sicuro, l'autonomia in Rai, a questo punto ce l'ha solo la gente, che è il vero padrone dei palinsesti. E infatti gli agenti comandano più dei direttori di rete. Direte, direi, a questo punto, fuori nomi! Più importanti dei direttori, dei capi struttura alla RAI, da molti anni, sono gli agenti, tipo Presta, tipo Caschetto, che impongono conduttori, format. Continuerà così sempre, eh? Anche con lei? Sì o no? Ma di cosa stiamo? Nel senso che tutti i personaggi rilevanti hanno un agente, ma in Italia, in Francia, in America, e uno per riuscire a avere prestazioni di questi deve confrontarsi. Sì. No, in genere si vedono spesso a pacchetto, quindi non è una domanda proprio peregrina che faccio. Quanto più, ha un senso. Quanto più è forte la RAI e i progetti che la RAI ha, tanto più va a scegliere le persone che gli servono. Una volta i dirigenti andavano a cercare le persone, adesso arrivano gli agenti, va bene, è un altro modo. Senta, è vero che lei ha un rapporto speciale con Caschetto? Povero campo nell'orto, l'acqua non arriva ma il Caschetto sì. Allora, ricapitoliamo. Paola Perego è stata cacciata. Lei è la moglie di Lucio Presta, il quale lamenta giochi di potere e perfino, caro Mario, di dover pagare pegno in virtù di un'amicizia. Dice lui: mi perseguitano. Lo dice sul foglio, no? No, lo disse prima. Sul prima. Foglio oggi dice che ci sono i giochi di potere. Lo disse prima, sul foglio. Ma lo disse prima, mi perseguitano, disse, perché sono amico di Matteo Renzi. Insomma, è un manicomio. E però questo manicomio, Giovanni, è sempre nel solco di un mandato educativo, culturale e meritocratico. Presta si ritrova perseguitato perché amico di Renzi. Ma dai. Ma Renzi, furbissimo, si è già portato avanti, perché lui, più che amico di Presta, è sodale di Caschetto. E con Caschetto ci casca bene, perché questo è mentre siamo in diretta dalla RAI mi arriva un messaggio: controllo editoriale e a posteriore direttori che non dirigono gioco del Cerino per non prendersi responsabilità, sono le nuove regole della casa. Questa è la sensazione del popolo della RAI. A me sembra tutto un pasticcio clamoroso. Povero campo nell'orto, vai, non ci arriva l'acqua. Poi uno che viene cacciato perché è amico di Renzi mi sembra difficile. Non male. Allora, sarò secco da secchi. E Giovanni, sai quanti sono i cambi di casacca in Parlamento finora? Ne abbiamo parlato una volta. Camere se ne sono aumentati, ti do un aggiornamento. Sono diventati 451. Non è male. No, volevo dirlo perché tra le tante cose che non si sono riusciti a fare, mai si faranno, probabilmente c'è proprio questo. Pubblicità. Mix 24. Il 23 marzo del 1944 i gruppi d'azione patriottica attaccano una colonna tedesca di polizia in via Rasella a Roma e uccidono 33 soldati tedeschi. La vendetta dei nazisti è durissima. Hitler è inferocito per quanto accaduto a Roma e minaccia una rappresaglia esemplare. Il Führer ordina che per ogni soldato tedesco ucciso siano fucilati 10 ostaggi italiani. 10 civili dovranno essere uccisi per ogni soldato tedesco morto durante l'attentato avvenuto il giorno prima in via Rasella. Il 24 marzo, il giorno successivo, i tedeschi compiono un rastrellamento indiscriminato di civili. Li caricano sui camion e li portano in una cava di tufo in via Ardeatina. Sono giovani e anziani, cattolici ed ebrei, artigiani, commercianti e operai. 335 persone che vengono brutalmente trucidate. È l'eccidio delle fosse ardeatine, un massacro che si consuma nel giro di 2 giorni a Roma, ma che segna il momento più tragico dell'occupazione, emblema della barbarie nazista in Italia. Non si può descrivere che cos'erano quei morti. Una cosa impressionante da che non te lo scorderai mai più. Dunque, per i gialli della storia ripercorriamo, dopo il giornale radio, una delle pagine più tragiche dell'occupazione nazista, l'eccidio appunto delle fosse ardeatine. C'è una bolla ancora? Sì, visto che l'avete evocato, allora parlerò di Renzi, che su Facebook ha scritto che bisogna cacciare Dieselbon. perché prima si dimette è meglio è. Sapete tutti, è il presidente dell'Eurogruppo, siccome ha detto ieri che i paesi del sud Europa spendono i soldi in alcol e donne, allora bisogna continuare con l'austerità. I contributi della UE, di questo parlava? Sì. Finanze e così via, sì. Divertente ma anche triste perché, mamma mia, come siamo scesi in basso, vabbè. Vabbè, se adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, gennaio 2017. Associazione tra esercizio fisico saltuario e mortalità. Le linee guida sull'esercizio fisico che possa promuovere salute e longevità raccomandano un'attività moderata e intensa per molti giorni la settimana. I benefici di un esercizio fisico saltuario, quello definito per i cosiddetti guerrieri del weekend, quelli che si scatenano solo nel fine settimana, bene, questi benefici sono meno chiari. Sono stati studiati 64.000 inglesi e scozzesi e sono stati divisi in 4 gruppi: gli inattivi, gli attivi ma in modo insufficiente, cioè che facevano esercizio fisico una volta ogni 10 giorni, i guerrieri del weekend, cioè quelli che facevano perlomeno 75 minuti intensi una volta alla settimana o 150 sempre moderatamente intensi due volte alla settimana, e il quarto gruppo era quello degli attivi regolari, quelli che fanno attività fisica più di 3 volte la settimana. Sono stati seguiti per 9 anni, ci sono stati 9.000 morti e la mortalità era decisamente più bassa negli attivi regolari, ma era anche più bassa nei guerrieri del weekend, cioè quelli che fanno solo attività fisica nel fine settimana. Allora concludono con il detto «Some is good, more is better». Un po' di esercizio va bene, ma farne di più è meglio. Ma è anche vero che anche perlomeno una o due volte la settimana aiuta. Quindi non ci sono scuse. Tutti quelli che dicono io non posso perché devo lavorare tanto, perché non mi permettono, eccetera, bene, hanno il fine settimana dove potersi esercitare e diminuire la mortalità. E per chiudere, Gianna Nannini e Giorgia con Salvami. Salvami, mi fa male quando è sincero. Salvami, dimmi almeno che non è vero. Guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità. Se sai come si fa.